Proviamo a riflettere su alcuni atteggiamenti della nostra vita. Quante volte siamo chiamati a dover scegliere, magari tra due cose ugualmente buone. Come scegliere? Tutti i momenti siamo chiamati a fare, dalle cose quotidiane, preparare da mangiare, alle cose magari nuove, una sorpresa a cui tu devi rimediare. Tutti i momenti siamo chiamati a parlare e anche lì, o siamo chiamati a tacere. E quante volte magari noi scattiamo, gridiamo, ci deprimiamo, tutti atteggiamenti della vita, amici. E potremmo moltiplicare. Ora io mi chiedo e vi chiedo, in base a che cosa noi agiamo? In base a che cosa si parla, si agisce, ci si arrabbia, ci si risente? In base a che cosa? Io credo che ciascuno di noi dovrebbe dare la sua risposta. In base al mio carattere, in base all'educazione. Di solito diamo la colpa agli altri, no? E invece lì emerge il nostro carattere, emerge la nostra educazione. Emergono i nostri rancori, emerge la nostra grettezza, oltre, naturalmente, al fatto di essere provocati dagli altri. Io credo che il rimedio contro tutto questo stia nella prima orazione. Se avete il messalino, vi invito a prendere la prima orazione di oggi. È importante, amici, averlo, eh? Perché uno può prepararsi prima, io lo faccio sempre, tutto sottolineato, ma tu devi predicare, sì, ma voi dovete vivere. E c'è il rischio che il prete predichi, preghi, amen. Ma cosa ha detto il prete? E tu dici amen? Venga su noi, o Dio, la grazia dello Spirito Santo. Ci stiamo preparando alla Pentecoste. Fra domenica prossima, non solo, ma la grazia dello Spirito Santo è presente in noi tutti i momenti. Il Padre ci ha creati, Gesù ci ha salvati. Lo Spirito Santo, adesso io sto distinguendo, ma non è che in un triangolo tu puoi separare un lato dall'altro, però sono tre lati e tre angoli distinti, seppure uniti. E lo Spirito Santo invece muove la nostra vita. Venga su noi, o Dio, la grazia dello Spirito Santo e ci illumini nella conoscenza della tua volontà. Ecco qui. È volontà di Dio parlare? Mi ha provocato. Ma è volontà di Dio? È volontà di Dio agire o trattenersi dal fare quella cosa lì? Con la spesa, per esempio. È volontà di Dio tacere? O lo fai per vigliaccheria? O lo fai per scelta? È volontà di Dio arrabbiarsi? Quante volte siamo pentiti? Se andiamo a confessarci è proprio per questo, no? E quante volte siamo delusi, ma ci illumini nella conoscenza della tua volontà. Quante volte, amici, noi facciamo dei passi indietro perché siamo delusi. Il parroco magari dà un incarico a te, ditemi che non è vero che ci si ingelosisce. Ditemi che non è vero che magari l'hai sempre fatto tu e dici basta, io non gioco più. Amici, ma faccio degli esempi normali, che capitano nelle nostre parrocchie, che capitano tra fratelli e sorelle in casa. Hai detto che guardavi tu la mamma, avanti. Ma attualmente non posso, anch'io ho i miei impegni. La conoscenza della tua volontà ci illumini lo Spirito Santo, amici. Non si deve parlare, tacere, arrabbiarsi, deludersi per il nostro carattere. Perché in tutto questo il maligno ci lavora alla grande e noi crediamo di fare la volontà di Dio e invece è un nostro risentimento, invece è una nostra delusione, invece è una nostra vanità, invece è una nostra prepotenza. Venga su di noi, o Dio, la grazia dello Spirito Santo, che vuol dire che senza Spirito Santo, amici, non si può vivere. Quanto poco ti preghiamo, Spirito Santo. Illuminaci nella conoscenza della volontà di Dio, perché la possiamo testimoniare con sincerità nella vita. Oh, cari amici, è 2000 anni che noi abbiamo in mano il Vangelo. Noi preti poi addirittura lo predichiamo e siamo qui a insegnarlo a voi. E non abbiamo ancora convertito il mondo e non abbiamo ancora convertito noi stessi. Perché? Eppure la parola di Dio consacrali nella verità, diceva la predica di ieri. Consacrali nella verità. Cari amici, diventiamo amanti dello Spirito Santo. Diventiamo devoti dello Spirito Santo, diventiamo studiosi dello Spirito Santo per poter essere da Lui illuminati. Questo verbo, amici, che possiamo essere illuminati.